Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a un'altra puntata dell'Onda Giallo Blay. Siamo reduci anche questa settimana, insomma, da giorni molto travagliati. Purtroppo domenica c'è stata la seconda sconfitta consecutiva, gli animi sono giustamente anche un pochino prevedibilmente esagitati. Noi stasera, in un clima certamente non euforico, cercheremo di analizzare quello che è successo negli ultimi 14 giorni. Questa trasmissione, vabbè, oltre all'amico Pierangelo, Ciro Curci non c'è stasera, abbiamo Rocco Napoleone e Ivano Buondomo. Buonasera ragazzi. Buondonno. Buondonno. Buondonno. Buondonno può sembrare il procuratore di Marzocco. Non ti sentono, dopo ti siedi. Allora, io partirei con Rocco, che è la sua prima volta qui in radio. Allora, Rocco, come la giudichi questa situazione? Un'atmosfera tesa, un momento non dei migliori? Beh, proprio non è proprio si auspicava quando è stato chiamato il tecnico Mandragora, tecnico se vogliamo definirlo così, che alla fine sarebbe conclusa così la storia. Dopo Casarano avevo una minima, proprio minima, come se aspettavo che con la Sernese una minima reazione ci fosse stata, invece proprio c'è stata la debatto. Questo rispecchia la personalità del tecnico inesistente, insomma, una personalità, come si dice, adattabile come l'acqua, in qualsiasi recipiente lo metti viene contenuto, insomma, è così, c'è una proprietà fisica. E il tecnico rappresenta quello che tutti gli altri, insomma, mister, tecnici, dirigenti delle altre società non vorrebbero avere in squadra. Insomma, domenica si è vista una squadra organizzata come la Sernese. La cosa bella è che si sapeva che Pirozzi è un buon allenatore tecnico. Senza fronzoli e senza frange, senza pagliette, senza stemmi, insomma, molto, molti fatti. Che ne dicano le persone, perché non so che partita abbiano mai visto questi che dicono che Lischia ha giocato bene, perché io tutto posso dire tranne che Lischia ha giocato bene, perché Lischia si è affida da sempre, da quando è andato via Cittadelli, a lanci lunghi per la testa di Ercolan, senza idee, una squadra priva di qualsiasi mordente, priva di qualsiasi schema e trama di gioco. Quindi non so questi fantomatici tifosi, insomma, perché adesso a questo punto tutti quanti si reputano dei tifosi e dispensano consigli. Che partita abbiano mai visto? Io che posso comunque ritenere di essere abbastanza distaccato da questa situazione, che io lo sapevo, posso assolutamente dire che Lischia ha giocato una partita pietosa, ha giocato 20 minuti sulla grinta, sull'entusiasmo, la gente non ha capito che Billone Monti non ha fatto colpire una palla di testa del Colano. Quindi veniamo meno in tutto e per tutto su quello che poi è l'unico potenziale. Quindi se si voleva fare qualcosa, casomai il tecnico avrebbe dovuto cacciare fuori Ercolano e mettere Mazzei, ma non ha la capacità di fare questi cambi. Lo stesso cambio di Chiariello al De Rosa Centrale è vergognoso come scelta. Poi lasciamo stare le scelte, benissimo, Chiariello si è fatto trovare pronto, onori a lui, un ragazzo serio, un ragazzo lavoratore, un ragazzo che comunque si è dedicato alla causa. Dopo Martino è stato massacrato da tutti, compreso il tecnico, soprattutto il tecnico che disse che era un giocatore di promozione. Questo ragazzo si è messo a disposizione e domenica ha fatto vedere di che passo era fatto. Infatti, fino a quando non è uscito, stava giocando la sua degna partita. Non capisco poi perché ha spostato De Rosa. Perché per me era la frutta. È inutile, era inutile. Anche perché, come poi penso che non sono l'unico ad aver visto che Platone, portatore di palla, con un cervello abbastanza buono e con dei piedi e collegati allo stesso cervello, dispensava palloni per quei tre lì davanti che con Olcese e Ragosta davanti, insomma, facevano sempre qualcosa, poteva capitare sempre qualcosa. Togliendo De Rosa e lasciando Ausiello, che onestamente posso affermarla per quanto mi riguarda da tifoso dell'Ischia abbonato, è una delusione, come, cioè, onestamente se qualche settimana fa, qualche settimana fa ho detto che sa, viene meno con le grandi, quindi non è un giocatore secondo me incompleto, perché fino adesso non è che ha avuto. Tu come la vedi? Ma Pierangio, se vogliamo fare un'analisi tecnica, io sono d'accordo con te. Rischia i primi 20 minuti per rabbia, per cattiveria agonistica, diciamo che meritavo pure di passare in vantaggio. Poi dopo il 20esimo, 25esimo è finita lì. Però ti dico una cosa, a parità di uomini l'Ischia è 10 volte superiore alla Sarnese. Però sì, la Sarnese c'ha quell'organizzazione, quella squadra di quella sapere, coesione, di sapere nei reparti quello che vuole, una bravo, squadra corta. La Sarnese lotterà, per questo lotterà fino alla fine per il campionato, perché una squadra sa quello che vuole. C'ha una buona guida in partita. Io voglio fare una, perché poi probabilmente qua parliamo sempre, anche se la trasmissione, poi dobbiamo parlare noi perché la trasmissione è la nostra, quindi parliamo noi. Chi è, insomma, non è che se, noi tifosi, intendo, sì, sì, sia ben chiaro. Volevo fare questa domanda a te, Ivano. Come hai visto e come giudichi i 20 minuti iniziali e poi i restanti 70 minuti dell'Ischia, come ti sono sembrati? A questo punto io mi meraviglio nel sentire dire che l'Ischia ha giocato bene ed è stata sfortunata. È stata sfortunata nell'occasione delle traverse, sicuramente, perché poi la traversa, però soprattutto la seconda. Parliamoci chiaramente, che organizzazione di gioco ha questa squadra, Ivano? No, Pierangelo, io come ti ripeto, i primi 20 minuti mi sembrava, ho detto, vabbè, la partita si può incanalare in un verso giusto. Poi dopo, perché io dico una cosa, io secondo me l'Ischia manca proprio di qualcosa a livello di fisicità, perché non è possibile che una squadra dopo 20 minuti, diciamo, quasi si siede. Poi per reazione nervosa che abbiamo subito il gol, pure per sfortuna nostra, perché il portiere ha fatto, per me, una papera esagerata. Allora lasciamo stare, ragazzi. Può succedere, per l'amor di Dio. E lì si è presa la traversa, quella sulla forza dei nervi, ma il gioco se ne è visto poco o niente. Ma da quando se ne vede poco? Da molto tempo, con queste palle lunghe facciamo il gioco degli avversari. Voi non so se avete sentito, se avete avuto modo di vedere Luigi Mennelli, il quale ha detto, ma come avete fatto a perdere con Casarane che a Campania non ha azzeccato due passaggi? Insomma, le parole di Luigi Mennelli, non è che lo dico io, non lo dico io. Pierangelo, io ti scusami. Parte molto da dietro e forse dall'interno. Voglio capire se questi giocatori hanno la voglia di vincere il campionato o hanno la voglia così di giocare tanto per giocare. Perché il Casarano, quello sapevo che a Napoli non è arrivato neanche davanti al centrocampo, ha giocato nei suoi 35-40 metri. Le parole di Luigi Mané sono state queste. Sì. Cioè, quindi è chiaro, quindi è inutile enfatizzare qua nessuno. Allora io vorrei praticare un attimo di condizionamento mentale, se mi può riuscire, nel senso che qua si dice che i tifosi abbiano, allora io vorrei informare tutti quanti che i tifosi nel momento in cui dovevano portare il rucolino di qua e di lì servivano. Nel momento in cui i tifosi dovevano vendere gli abbonamenti servivano. E quando parlo di tifosi mi riferisco ad Ivan Ditale, a Pierangelo Pessi, a Ciro Curci, ad Aldo Marina e a tutti coloro che, allo stesso Ivano Bondon, a tutti coloro che durante quest'estate hanno perso tempo, ore e notti per vedere di organizzare questa situazione. Quindi prima di parlare della pro società e non pro società, di questo e di quell'altro, informatevi e provate a chiedere anche al direttore Crisano chi sono stati i tifosi che hanno favorito questa situazione quando lui non sapeva neanche dove si trovava Piazza degli Eroi. Quindi quando si parla di determinate situazioni e si accendono delle polemiche sterili, fate attenzione, perché qua state parlando con il cuore dell'Ischia Calcio da sempre. E ci possiamo benissimamente vantare, perché non è la prima volta che succede questo. Siamo sempre i soliti 5 o 6, 10 a far sì che si raccolgano le collette, a far sì che si vendano abbonamenti, a far sì che la gente, quando l'Ischia non va bene, se la viene a prendere con Pierangelo che ha venduto l'abbonamento, dice, ma che cacchio merata. Questo è il discorso, quindi state molto calmi nel dire determinate cose. State molto calmi nel dire, noi abbiamo il diritto come tifosi di non volere Mandragora, poi la società farà le sue scelte e nessuno le condizionerà, però la scelta di portare la squadra lontano dalla da Ischia è una scelta scellerata, è una scelta, è un libero arbitrio che non si poteva, non si doveva arrivare in questi giorni, nessuno si doveva arrogare questo diritto. L'hanno fatto, va bene così. Io non mi trovo d'accordo. Pierangelo ha portato Rucolino sul motorino dappertutto. Tutti i punti vendita che hanno Rucolino lo devono a Pierangelo, a Roberto Albano che se li è messi dentro al bar, nell'attività commerciale sua, dovendo stare con i clienti che andavano avanti con questo pamoggio davanti. La stessa cosa durante le ore di lavoro, le telefonate con Ivan per quanti abbonamenti erano stati venduti, quanti abbonamenti servivano, a fare passeggiate lungo il corso con mia moglie e mio figlio, e la gente mi fermava per chiedermi l'abbonamento e io senza batteria. Io davo. Quindi il signor direttore Nicola Crisano, determinate cose farebbe anche bene a dirlo, quando tutti quanti, anche attuali blogger, facevano articoli sulla Nazionale Under 21 e sulle critiche a Nicola Crisano, queste persone non dicevano nulla. L'unica persona a difendere Nicola Crisano in quell'occasione sono stato io e l'amico, siamo stati io e l'amico Ivan d'Italia, venendo definiti anche filosocietari. Quindi state bene attenti a fare determinate affermazioni, che non perché che sia una minaccia, che io non minaccio nessuno, a me non interessa nulla, io sono tifoso dell'Ischia, mi sento il tifoso dell'Ischia. A me di quello che dite voi non interessa, la squadra da Ischia non doveva andare via, non si doveva permettere questa cosa, l'hanno fatta per tranquillità, io non lo so, poi vedremo, io spero di sbagliarmi, però vedremo. Allora, Pierangelo, per tranquillità ci può stare se ci stava un cambio tecnico in panchina, così si recuperano energie e la squadra lavorava in pace con, diciamo, col nuovo allenatore, tra virgolette, chi che sia. Ma con questo allenatore, per non per non far sì che magari veniva, come logico sia, contestato, che lui poi domenica sera è andato via con la macchina della polizia. Sono andati in ritiro. Io questo è anche una cosa che non concepisco. Ma come mai Cittadella è andata via? È andato via lasciando il ricordo praticamente bello dell'uomo onesto e lavoratore che è. Perché nessuno ha cercato di ha inveito mai, se non durante i 90 minuti della partita, e basta, e mai al di fuori, anzi si è sempre fermati a prendere anche un caffè con mister Cittadella. Perché si vuole accusare adesso di Voseri di intervenire in queste scelte? Perché non hanno fatto la stessa scelta quando tutta la tifoseria aveva chiesto di non allontanare Cordua, di lasciare Cordua perché lo vedeva come un grande leader? Non giocando Cordua era diventato leader. Perché non hanno ascoltato le parole dei tifosi all'epoca? Per quale motivo? E adesso ci vogliono additare come coloro che portano chissà quale evento nefasto. Questo è il discorso. Questo è il discorso. Io quello mi chiedo, Rock, tu come la vedi? Diciamo un po' più distaccato probabilmente, non perché tu sia distaccato, ma come ospite in radio. Come sì, pensi questa... Io penso che Cordua era, anche se ha fatto pochissime presenze durante l'anno, per me era diventato un leader. Non si è capito con l'avvento di Mandragora cosa ha voluto portare... mandandolo via. Poi al suo posto è sopravvenuto un certo Marzocchi che... soprattutto Cordo è un giocatore che comunque stiamo parlando sei campionati di Serie D vinti, signori, ma stiamo scherzando, un giocatore che in campo butta proprio il sangue, un gattuso, della categoria che... Ma poi io voglio chiedere questo, voglio farvi ragionare su una situazione evidente. Fino adesso Sarli è stato beffeggiato, diciamo, anche dall'allenatore, perché l'ha fatto riscaldare in più di un'occasione per 20-30 minuti, come ieri domenica è successo a Savio, senza neanche prenderlo in considerazione. Adesso che Manzo non gioca, lo si prende in considerazione. Va anche bene, questo è il gioco delle parti, no? La differenza di ruolo, però l'allenatore dovrebbe anche premunirsi in determinate situazioni, invece questo non è accaduto perché probabilmente c'è una carenza sia caratteriale proprio di approccio alla gestione di uno spogliatoio, perché la psicologia dello sport insegna che in una situazione dove sono presenti almeno 22-23 persone si creano dei sottogruppi, se facciamo almeno 5 gruppetti, perché facciamo a 4, insomma per ci sono 20, insomma, facciamo questo tipo di discorso. Questa è la bravura nella gestione dei gruppi. Probabilmente Billone Monti, quando non voleva altri giocatori, si riferiva a questo. Noi, non essendo allenatori, non lo possiamo capire, non possiamo sapere come si vive lo spogliatoio, come diceva la buonanima di Carosel Ustanzone. Insomma, questo probabilmente è la chiave di lettura in questo contesto. Mandragora è stata la scelta della società, Mandragora è stata la scelta della società, noi a questo punto lo accettiamo, anche perché diversamente non possiamo fare, come non abbiamo mai fatto, anche perché non è da ieri che lo dico perlomeno io, che Mandragora deve andare via, ma io lo dico da dopo Martina Franca, ci sta Mauro Gozzolino, insomma, che può testimoniarlo, Ivan, e chi mi conosce, insomma, lo dico da una vita, quindi imputarci di premeditazione è veramente vile e viscido, insomma, scorretto, perché io per onestà intellettuale do ragione a colui che ha ragione quando c'è da dare ragione, ma nel momento in cui mi si ritorce contro una situazione che non ho creato io, non mi va più a genio, insomma, e ho il dovere morale nei miei confronti, di dissentire. Ho il dovere morale e nessuno può impedirmi di dissentire, perché non ci riuscirà mai. Questo è il discorso. Io non sono né filosofo, a me mi interessa che l'Ischia calcio vada avanti, come ho sempre ringraziato tutti coloro che ci hanno permesso di fare calcio ad Ischia, da Enrico Scorti ai Di Meglio, ai Di Costanzo, sono tutte, ai De Vivo, sono tutte persone che vanno ringraziate, e l'ho sempre detto. Luigi Iannucci, se ci sta seguendo, testimone. Lo invito a prendere il pezzo di quest'estate. Quindi non facciamo finta di nulla, siamo onesti intellettualmente, facciamo le persone oneste, questo è il discorso. Noi continuiamo comunque ad appoggiare questo, non devono pensare che noi facciamo un attacco alla società, anche continuiamo ad appoggiare questa società, la ringraziamo sempre, non vogliamo essere ripetitivi per quello che hanno fatto e per quello che stanno facendo, per l'amor di Dio. Ringraziamo il dottor Carlino, ringraziamo il direttore sportivo, pure Alessandro Malgiri, in quale va la nostra solidarietà per quello che è successo, anche vogliamo ringraziare Crisano, però adesso ci sono, in questo momento è l'allenatore che noi conosciamo già 10-11 anni fa con Pierangelo, stavamo tra virgolette, ci ha portato a morire a San Paolo, sta ripetendo gli stessi errori. Noi umanamente non abbiamo nulla contro Mandragora, per l'amor di Dio, ma tecnicamente vedo che non ha, l'ospedale è tagliato a fette. Allora, prendendo questo provvedimento, io dico che la matematica non ci condanna, possiamo sicuramente ancora lottare per allora, il campionato. Io voglio dire a tutti quanti, insomma, chi ci ascolta, io come voi presenti, amici che siete stati lì a Casara, ma farsi 1100 chilometri in una giornata, questo sono il tempo che trovo, perché poi là guardo veramente, va bene, ma non lo diciamo perché non vogliamo passare come i salvatori di niente, perché noi siamo stati umili tifosi, siamo andati a vedere la partita e lasciare famiglie, magari bambini, io mi potevo stare a casa, sono pazzo, cioè io sono pazzo che vado a vedermi la partita e vado lì per tifare contro, cioè questa è la, cioè, mentre chi sta qui a Ischia seduto in poltrona a farsi magari la passeggiata per via Roma è tifoso. Tifoso, sì. Io che sono andato lì sono un tirachiodi. Questo è il discorso. Il contrasenso è questo. Allora, qua, se si vuole dire che in questo momento c'è il sole, io prendo per buono questa cosa, però effettivamente adesso è notte, è scuro. Quindi il discorso è questo. Noi c'eravamo a Casarano. Noi abbiamo vissuto il dramma di Casarano, perché di dramma si tratta, nel senso che Pangrazio Arcamone era vicino a me. Può parlare, Rocco Arcamone lo stesso Tommaso D'Alierz, la sofferenza nel vedere quella partita, in ogni secondo aspettare che arrivava il gol e immancabilmente arrivava, quindi lasciamo stare i personalismi, noi non siamo Mandragora, noi personalismi non ne facciamo, noi siamo i tifosi dell'Ischia, nessuno vuole quantificare niente, perché queste sono cose inquantificabili, se poi c'è la bilancia per quantificare queste cose, io non lo so, però venire meno e cercare di mistificare la situazione dicendo che chi va in casa e in trasferta non è più tifoso, non è una questione di essere più tifoso o meno, magari più attaccato, più sensibile a questa causa, questo è un dato di fatto, è un dato di fatto, è inutile. È inutile continuare a dire voi quando io non c'ho 3 giorni, queste persone che parlano adesso sono quasi miei coetanei, io non c'ho 3 giorni, io sono sempre stato, ci sono sempre stato e non li ho mai visti in trasferta, ma con questo non dico che non sono tifosi, però io sono più sensibile di loro in questo, per la causa Ischia Calcio, o mi sbaglio? No, no, hai perfettamente ragione, Pierangelo. Il discorso è questo, Rocco, come la vedi tu? Tu sei più giovane di noi, come vedi questa questo concetto? Proprio a Casarano è stata una lunga agonia fino al 90esimo, non vedevamo proprio l'ora che arrivava il 90esimo. Per ritornarcene a casa. Andarci a prendere il traghetto, l'unico pensiero era quello lì. Neanche quello abbiamo potuto fare. Nemmeno quella. È stata una caduta psicologica proprio della squadra, perché una capolista che vuole vincere il campionato scende in campo. Appunto. Noi il primo tempo abbiamo giocherellato, il secondo tempo non ne parliamo proprio. Cioè, che significa tutto questo? Si può anche perdere 2-1, 1-0, giocata, ha preso il palo, il rigore, siamo stati sfortunati, l'arbitro ci ha negato qualcosa, voglio capire, ma noi eravamo proprio nefasti in quel di Casarano, che poi come dice Pierangelo e come ho saputo pure io, la settimana prossima a Napoli che squadra è che questa ha battuto lì? Luigi Mennelli, questo è testuale. Impossibile. Come è possibile perdere con quella squadra? Adesso io non so se siamo noi pazzi o Luigi, e io prendo per buono, ma certamente se ci vuole rispondere, se c'è il numero, vediamo di se vediamo che Luigi Mannello cosa ci dice a questo punto. No, ho visto le immagini. Così prendiamo per buono, perché qua bisogna anche un pochettino uscire da questa ottica un pochettino tuttologa di qualcuno, distruttoria di qualcun altro. Siamo tutti tifosi dell'Ischia, facciamo i tifosi dell'Ischia, abbracciamo la causa Ischia, che qui nessuno vuole mandare via nessuno, qui nessuno vuole, anzi qui di estate invece di andarci a fare i bagni a Cava dell'Isola o al Castiglione eravamo a vendere abbonamenti. Quando Crisano e Senese sono venuti a Rispoli c'era Pierangelo, Ivan Cire Curcio, Mauro Angelini, Gennaro De Iacono, il maresciallo Pesci, questi non è che ci stava questa grossa flotta. Chi li accompagnava a Margiria era il sottoscritto con altre persone. Quindi, facciamo le persone serie, mettiamo i puntini su lei. Anche alla riunione all'Hotel Le Querce, da noi è stata organizzata. Facciamo le persone serie, questo è il discorso. Non cerchiamo fantasmi e buttiamo la croce addosso a qualcuno, perché qua se c'è da qualcuno da ricevere chiodate, lo sappiamo tutti chi è. Questo è il discorso. Non è accettabile continuare a fare. Chi è Luigi? Buonasera, abbiamo un'ottima presenza questa sera qui con noi, è Luigi Mennella. Buonasera Luigi. Ciao Piangelo. Come va? Tutto a posto, lui? Tutto bene, tutto bene. Luigi, io ti ho voluto chiamare, insomma ti abbiamo voluto chiamare perché domenica avete giocato con il Casarano. Insomma, so per certo che l'impressione che hai avuto del Casarano non è quella di una squadra fortissima, o mi sbaglio? Lui? No, io diciamo che i primi 15 minuti, 20 minuti è stata una partita abbastanza equilibrata, però io devo dire che anche noi abbiamo fatto una grandissima prestazione. Ma voi siete un'ottima squadra sicuramente, lui. Quindi credo che sia stato anche quello il fatto che Casarano non ci ha mai tirato in porta, ecco. Credo che non ho fatto nessun intervento. Questo mi fa piacere che tu dici questo, lo sa Luigi, perché tu sei una persona seria, sei una persona che sei andata via dall'isola per giocare al calcio, hai giocato al calcio con grandi risultati, sei stato in piazze importanti, hai vinto dei campionati importanti, ti sei giocato il posto contro il volere di qualche allenatore che non ti voleva, lo hai vinto, hai fatto quello che dovevi fare, quindi mi fa piacere che tu dici questo, perché è sicuramente un valore aggiunto alla nostra tesi, questo è il discorso. Luigi, buonasera Ivan. Mi senti? Ciao, Ivano, ciao Luigi. Io ti volevo fare una domanda, forse un po', cioè non è un po' maliziosa, ma secondo te, tu adesso, pur non stando a Ischia, sicuramente leggi su internet, segui, sai com'è la realtà in questo momento, che c'è un clima di insofferenza verso l'allenatore, ripeto, verso l'allenatore e non verso... Secondo te, a questo punto della stagione, a 6 giornate dal termine, a 45 giorni dalla fine del campionato, un cambio dell'allenatore prendendo una soluzione interna, non prendendo Capello o Zeman da fuori, potrebbero dare un effetto, insomma, risolutivo, visto che comunque la situazione è un pochino, i nervi sono tesi? Ti ripeto, non che bisogna andare a prendere una... Il fatto è che non è detto che tu cambi e vinci, quindi io sono sempre dell'opinione che adesso, quando mancano poche partite, bisogna lasciare tutto tranquillo e tutto come sta, perché poi l'Ischia non è che sta... Sì, sta a 3 punti dal primo posto, sì. Appunto, domenica c'è una partita importantissima, lì stiamo a Casarano, Ivan, a Caserta, e alla fine cioè, lì si deve vincerle tutte, e con, se si sta tutti quanti uniti si può sperare fino alla fine. Io sono sempre dell'opinione che i casini non vanno mai fatti nei momenti di difficoltà, ma aspettare fino alla fine e poi dopo tirare le somme. Adesso come adesso, cambiare un allenatore secondo me è delle tese. Ma accettiamo anche questo consiglio detto da te, lui va a piacere, no, il fatto che poi dopo puoi anche cambiare, però se non vinci poi che succede? Sì, sì, sì, sì. Ma probabilmente è la cosa più razionale che si poteva fare, insomma. E infatti quello è io dal mio punto di vista, adesso non so precisamente come stanno le cose, però io credo che se la società l'ha riconfermato come è successo, loro credono in questo allenatore. Io domenica sono stato al campo, ho visto la partita. Chiaramente è normale che da tifoso ci rimango male, però come è andata la partita, è stata anche sfortunata, una traversa, gol forse che potevano essere fatti, ma questo fa parte del calcio. Però diciamo sempre di non far casino e aspettare fino alla fine e poi tirare le somme alla fine. Benissimo, sì, ma è pienamente d'accordo con te, Luigi. Perché... Luigi c'è... Sì. No, no, c'è Ivano che ti vuole fare una domanda, aspetta un secondo. Ciao Luigi, sono Ivano. Ciao Ivano. Come stai? Tutto bene, tu? Abbastanza. Ci siamo salutati domenica un attimino prima che iniziava la partita. Luigi, ti faccio una domanda. Tu l'hai avuto come allenatore a San Pansiviano, giusto? Sì, sì. Poi lui ha fatto 2 campionati abbastanza buoni a Trotere Greco, ma come mai questo allenatore ogni volta che viene a Ischia mi sembra che non comunica con lo spogliatoio, non so, risultati vanno e vengono, non riesce a dialogare, non lo so. Questo adesso non ti posso rispondere. Perché non lo vive lui, giusto? Insomma, Vesiviano, noi abbiamo fatto un ottimo campionato, è vero che siamo arrivati all'ultima partita, ci siamo giocati i play-off, sì. Però io dico che non lo so quello che succede negli spogliatoi dell'Ischia, perché non ci sto. Lui vuoi sapere cosa succede negli spogliatoi? Probabilmente manca una persona come te, che quando c'è da dire qualcosa, insomma un leader, probabilmente si soffrono i leader, qui Cordua non andava bene, e io veramente l'ho detto più di una volta oggi, magari ci fosse stato Enrico Buonacor o se ci fosse stato Luigi Mennella, io veramente do la testa nello spigolo, perché la tua presenza in questo campionato, in questo tipo di situazione, sarebbe stata veramente un tocca sano, e questo è il piacere di Pierangelo Pisci. Perché io ti ringrazio, però io penso sempre che il calcio è un gioco di squadra, una persona sola non riesce a fare. Se una persona riesce a tirare tutti quanti dalla stessa parte, allora ben venga una soluzione del genere, una persona in faccia. Lui, io volevo dire che in altre parti magari, diciamo, Mandragora si fa capire, da noi no, ma non lo so perché. E questo non lo so. No, per l'amor di Dio, capisco. Io non vivo neanche a Ischia. Cioè, sì, sì, sì, sì, capisco perfettamente. Stanno le cose precisamente. Io l'ho avuto come allenatore, un grande motivatore. Cioè, però adesso non lo so, io spero solo che l'Ischia vinca il campionato, perché sono tifosi ischitani, sì, ci mancherebbe. Ho giocato nell'Ischia quest'anno, anzi ho avuto pure il piacere e il dispiacere allo stesso tempo di giocarci contro, perché tornare a Ischia ad avversario per un ischitano non è mai facile, però è stato anche bello l'accoglienza e tutto. No, l'accoglienza magari ci hai spiazzato con i fiumi, lui si sta, diciamo. Il minimo che potevi. Ma magari dovevamo fare noi qualcosa, che se la verità è questa qua, lui Mogno, la magari noi ci scusiamo con te, perché è stato un attimo, magari non c'è, magari abbiamo fatto targhi a persone che hanno giocato un centimetro, qui tu insomma avevi molto più diritto alla nostra targa, questo te lo devo dire, te lo dico. Luigi, noi la prossima volta che ci incontriamo noi sicuramente io vengo a Napoli, Campania Sarnese sarà sicuramente una partita bella, diciamo. Confidiamo, voi siete una squadra. Non hanno bisogno di. No, una squadra perché... di sportivi. Esattamente. Cioè, giocano veramente a calcio. L'ho visto. Sono persone. Io c'ero. Noi la partita ce la giochiamo sempre, tanto è vero che noi abbiamo perso punti con le ultime in classifica. Sì, vabbè. Non per che cosa, però noi purtroppo siamo una squadra che abbiamo avuto questo momento, l'abbiamo avuto come tutte le squadre hanno avuto, adesso speriamo che l'abbiamo superato già da domenica. Luigi, a noi quello ci manca, lo spirito guerriero. Purtroppo quella è una cosa, o ce l'hai o non ce l'hai, non so. Io sono stato sempre una persona che si è fatta valere per il carattere. Ma per quello, io dico, lui io ti conosco, non è che c'è bisogno, a parte il portiere, cose siamo dischi, ci conosciamo. Per il carattere io mi faccio ammazzare, la giusta causa mi faccio ammazzare, quindi... Lo so lui. Luigi, questa casertana di Ferraro, hai visto come sta venendo fuori? Pure la casertana pure deve venire da noi, quindi... Ah. Io dico del rischio di pensare a vincerle tutte le partite. Esattamente. Speriamo bene, lui. Speriamo bene. Un'ultima domanda: il fatto che da domani la squadra si allenerà lontano dall'isola, diciamo più che altro per preservarne la tranquillità, per farli stare un pochino ovattati, tra virgolette, insomma, come lo vedi questa decisione? Ma per me, secondo me, è una cosa fatta bene, perché così si pensa solo a giocare, non. Fare polemica, quello che è successo domenica, quello che poi poteva succedere in settimana e tutto quanto, invece stando lì e preparare una partita delicata per Caserta, secondo me è stata la soluzione migliore. Lui, sentiamo che ti reclamano, ti lasciamo andare perché bravo, non preoccupare. Lui, grazie Lui. Di tutto. Un abbraccio a Ivano e a tutti. Grazie Lui, un abbraccione a te. Luigi, ciao Lui, un bacione. Ciao Lui, ciao. Ciao, grazie Lui. Luigi, è sempre un piacere sentire persone che comunque hanno fatto calcio a un certo livello, fuori dalle mura amiche, insomma, si sono fatti valere. Come del resto sta dimostrando lo stesso Vincenzo Monte, perché domenica veramente è stato insuperabile. Rimpiango tantissimo Vincenzo Monte, perché devo dirlo, perché poi ripeto, io magari là per là ti vengono i nervi, critiche, però lì non puoi fare nient'altro che apprezzare le 17 presenze, le 34 presenze di Vincenzo Monte, di Peppe Mattera, la costanza nel gioco, la volontà, l'abnegazione, ed è la pura verità. Quindi merito a loro, merito a Franco Imbagliazzo, che ha voluto fortemente all'epoca e ha visto lontano. Quindi questo è il discorso, bisogna dirlo proprio per onestà, bisogna affermare che Billone Mondi lo ha voluto fortemente, come Frank Davide Troff e Franco Imbagliazzo. E Gianluca Saurino. Quindi alla fine dei conti, questo Franco Imbagliazzo non è così nefasto per quanto riguarda l'Ischia. Anzi, ha portato... ebbe gli attributi 5 anni fa di prendersi determinate responsabilità, cose che altri allenatori non hanno saputo fare. La stessa cosa Billone ci ha salvato, ed è la pura verità. Con Enrico Scotti e quell'armata Brancaleone, ma chi lo nega? Però adesso ci troviamo a dover purtroppo fare i conti con una squadra di soldini profumati e a stare al terzo posto, e ai noi a dover stare zitti, perché la tranquillità è prima di tutto. Questo è Ivan, no? Sì, no, sono d'accordo, per Angelo. Io, diciamo, le parole di Luigi Mennella mi fanno, insomma, anche stare un pochino più sereno, che lui comunque da grande sportivo qual è, insomma, funge proprio da pompiere, invita tutti alla calma. Noi ci auguriamo che sia come dice lui, anche questo fatto che ora da domani si allenano in montagna lì a Telese, stanno nella tranquillità, ci auguriamo che si dedichino, insomma, anima e corpo, Rocco, a questa gara importante di domenica. La reazione che mi aspettavo domenica ci sia con la Casertana. Mi auguro che succeda proprio lì. Ce l'auguriamo tutti, è una gara dura. La Casertana è una delle squadre più in forma del campionato, l'attaccante più prolifica, Maiella, che ha fatto 23 gol, se non mi sbaglio. Non è uno squadrone, però Giovanni Ferrara ancora una volta ha dimostrato il suo valore. Ha preso una squadra che dopo il 3-1 di Ischia, che la prima di Mandragora, fu l'ultima dell'allenatore precedente della Casertana, che venne esonerato. La Casertana era una squadra distrutta nel morale. Comunque ci sta Francesco che ci dice che si può protestare in maniera civile, magari disertando lo stadio 5 minuti prima e 5 minuti dopo, ma comunque qui Francesco non lo so se vorrei dire una cosa. Fondamentalmente la protesta di domenica non è che è stata questa grande, c'è stato qualcuno che magari è andato un pochettino in escandescenza, però non penso, no, Crisano ha fatto lo stesso, non è che Crisano si è comportato da persona calma e tranquilla, guardiamo sempre dall'altro lato, il direttore sportivo anche lui si è lasciato andare a dei comportamenti poco calmi, quindi non facciamo finta che gli occhi sono soltanto, cioè l'occhio di sinistra guarda solo a sinistra e l'occhio di destra guarda pure lui a sinistra. Guardiamo con un occhio a destra e con l'altro a sinistra, così per poter avere l'equivalenza insomma, delle situazioni, non l'unilateralità. Giudicare in modo unilaterale è un modo assolutamente scorretto, perché mette in imbarazzo la statistica, nel senso che non si può dire come sarebbe andata a finire se dall'altro lato ci fosse stato, perché si esclude una parte. Guardiamo entrambi i condizionamenti che hanno le condizioni che hanno favorito il nascere di eventi. Non facciamo sempre i dietrologi, non ci nascondiamo sempre, io te l'avevo detto, io lo sapevo, io di qua, io di là, perché a questo punto lo posso anche dire, mi posso vantare, ma mi vanto di niente dicendo che io dopo Martina Franca lo dico da Martina Franca devi andare via, ma di che cosa mi vanto? Che l'Isca sa perdere il campionato e a me che me ne frega, che cosa mi viene, che cosa mi ritorna a me indietro? La mia delusione la conosco io, no Rocco, questo è il discorso. Ah, ecco qua un'altra graditissima presenza, buonasera Giovanni. Ciao, buonasera Giovanni. Come va? Siamo in campo di battaglia. Dove ti trovi? A Beirut, Giovanni, dove sta? Bagdad. Peggio, Fiaiano. Come mai? Abbastanza bene. Senti Giovanni, per quanto riguarda, non so se hai sentito, abbiamo intervistato praticamente Luigi Mennelli che ci ha fatto. L'ho sentito. Ecco, cosa ne pensi del Casarano macchina da guerra che sembrava contro di noi, a Casarano Paperotti che si sono portati lì in quel di Campania, in quel di Piscinola? Sicuramente avranno trovato dei problemi soprattutto legati al campo, perché non voglio proprio immaginare Villa, Ragao su quel terreno poco particolare, sarà stato per il Casarano che sono abituati a giocare su quel tappetino rifatto 3 mesi fa. Ma neanche tanto poi, insomma, bello il campo, l'erbetto non è che è così conservata bene. Il problema è del Casarano, che è una squadra che in casa cerca di gonfiare il petto per tentare un po' di salvare una stagione che fallimentare, insomma. Ma al di là di quello che può dire De Masi, cambia idea molto spesso. Sicuramente il campionato del Casarano è fallimentare, perché la squadra che ha a disposizione, sicuramente gridare al cielo come fa Caracciolo, una salvezza che sembra quasi tirata con i denti. Allora che cosa deve dire il Campania Piscinola, appunto, che spendendo il 20% di quello che ha speso il Casarano decisamente chiuderà sicuramente il campionato qualche punto avanti. Sicuramente Casarano ha disagiato su quell'impianto di gioco. Però ci sono due volti troppo differenti, capite Giovanni? È come prendere la moneta di un euro e quella di 500 lire e dire che sono uguali. Possono sembrare uguali, ma c'è una differenza sostanziale. Una è del vecchio CONI e una è del CONI ma i punti che ha fatto il Casarano in casa, quelli che ha fatto di casa. Però ti dico, Giovanni, andare lì, e Luigi Mennella, le parole di Luigi, insomma, l'hai sentite, non mi hanno tirato in porta. No, il Casarano fuori casa è una squadra che... Una squadra che sicuramente le motivazioni che ha davanti al proprio pubblico sono diametralmente opposte di quando gioca fuori casa. Ah, quelli che dicevano tu c'eri, non c'eri, perché purtroppo sei stato ci dicevano addirittura Terruni, ci hanno chiamato a casa. Terruni. Io mi ero scordato che stavamo sulle Dolomiti. Ma è una cosa spettacolare, perché essere definito Terruni da una zona, diciamo, piuttosto agreste, da Dieda Juvi. Non veramente a dir poco sorprendente. Vabbè Giova, comunque tu la scelta della società come la interpreti e come la vedi e come la interpreti? Ma quella del ritiro? Sì, io sì, quello sì, ti volevo chiedere. Ma è una scelta per proteggere il tecnico, l'allenatore, questo è poco, ma è sicuro. Ecco, quindi non è stata l'impressione nostra, non è un'impressione da pazzi, insomma, o no? È nella maniera più assoluta. Ecco. Grazie Giovanni. Mi piace molto quando succedono queste cose, perché oggi la società mi sono comunicato, lo spogliatoio non è spaccato, c'è stato un confronto, e tutto pesce fresco. Uno prende atto, perché giustamente bisogna prendere atto di quello che viene scritto, ma se lo spogliatoio, se c'è questo confronto, lo si poteva fare anche giù al Calisa al Porto, senza la presenza dei tifosi, si poteva fare anche al Capriccio a Casavice, lo si poteva fare anche alla Luccio alla Forio, lo si poteva fare... Grazie Giovanni. Lo si poteva fare tranquillamente anche sotto l'ufficio di Radio Treccia. Non è questo, non è convocare 25 persone in uno studio quadrato. Se sono fatti 4-5 summit nello spogliatoio, alla presenza addirittura di Carlino, del sindaco, dei dirigenti, del presidente, e alla fine non si è riuscito a trovare il ragno dal buco, fare un incontro a Napoli e mettere questo comunicato. Io capisco che all'esterno deve trasparire la massima serenità e la massima tranquillità, però certamente non è che i problemi si risolvono dalla sera alla mattina. Portare in ritiro un gruppo di giocatori che comunque perseverando questa situazione, lo status quo non è cambiato, quindi si può motivare qualche giovane, si può motivare qualche under. Sì, ma l'atteggiamento, le colpe giovani ti assicuro che sono sempre rivolte ai giovani. Portare un gruppo di giocatori che comunque non è che cambierà la forma mentis dalla sera alla mattina, se ci sono stati dei problemi, uno può anche giustamente metterli da parte. E cercare di analizzarli, insomma, no? Tutta la concentrazione, però questo è stato, diciamo, eviscerato in maniera non corretta. È stata diciamo, una decisione presa libero arbitrio, Giovanni, lo chiamo io. Ma la società è sovrana, Sì. È una decisione che va rispettata. Benissimo, assolutamente. Però Giovanni, però io personalmente non la condivido. Benissimo, Giovanni, è bravissimo, Giovanni, qua ci siamo. Però che male fai tu a dirlo? No, per la, io prendo atto, accetto, rispetto. Beh no, cioè nel senso ti ho fatto questa domanda perché ti fanno fare probabilmente qualche ora in più con la famiglia il pomeriggio invece di intossicarci, tra virgolette, al mazzello discutendo sempre delle stesse cose. Bravo Giovanni. Questo è l'unico vantaggio che possiamo avere, però ovviamente avrei preferito avere, diciamo, l'occhio del padrone alla fine dei conti, in grasso comunque sempre il cavallo, tenere la squadra lontano, che poi ribadisco, i problemi non si risolvono dalla sera alla mattina. È stato giusto questo confronto che hanno fatto con Senesi, ci mancherebbe altro. Rischia, domenica si gioca l'ennesima finale, probabilmente quella decisiva, perché in caso di risultato negativo, a questo punto bisognerebbe mettere anche a questo punto in discussione anche il secondo posto, che come diceva Basentini, il primo che arriva secondo, il secondo è il primo degli imbecilli, come non, sì. una cosa del, il primo dei falliti, non so, una storica frase di Basentini per indicare il secondo posto di una squadra che comunque è partita con certe ambizioni, tutt'altro che nascoste. Mi dispiace, ieri sera aver sentito per l'ennesima volta dire che non stava scritto da nessuna parte che Ischia dovesse vincere il campionato. Allora a quel punto si poteva continuare anche con Pizzarelli. Sembra che io ti abbia praticamente parlato tutto il pomeriggio e ti abbia convinto a dire determinate cose. Dillo che non ci siamo sentiti, perché qua sembro io praticamente, poi perché siamo passati noi tifosi come la causa di tutti i mali. Tu stai dicendo delle cose in maniera praticamente lineare, corretta, con un occhio anche dopo la sconfitta di Martino. Cioè, il problema non sono tante vittorie, purtroppo tante vittorie hanno nascosto determinati problemi. Poi quando poi i problemi vengono fuori, vengono sviscerati, probabilmente sull'isola abbiamo un difetto che accomuna altre piazze passionali, cioè che A volte certe situazioni vengono estremizzate, vengono sviscerate in maniera probabilmente in maniera troppo troppo accesa. A volte si potrebbero risolvere dei problemi. C'è una domanda per te, Giova, scusa, sì. Te la voglio fare. Dice che un ragazzo, come dice praticamente, se è vero che 10 giorni fa Crisano praticamente evidenzia il fatto che comunque l'Ischia avrebbe vinto il campionato, è vero? Questo non l'ha detto solo Crisano, l'ha detto l'allenatore dopo la contestazione, dopo la sconfitta di Martina, lo disse proprio il lunedì sera di Tele Ischia. A più riprese, in maniera convinta, il campionato disse al direttore, all'ex direttore, il campionato lo vinciamo noi. Il problema, il campionato lo si può anche non vincere, esatto. Però come è scritto stamattina sul giornale, bisogna portare a termine questa stagione con la massima dignità, evitando di fare lo scaricabarile. Ognuno si deve assumere le proprie responsabilità. Chi ha allenato la squadra, chi allena la squadra, chi ha costruito la squadra, chi ha tentato di avere un ruolo in società, dimettendosi a più riprese e poi rientrando, uscendo dalla porta e rientrando dalla finestra, le responsabilità di chi ha appoggiato certe scelte, le responsabilità di chi ha avallato certe scelte, la responsabilità di dire all'esterno determinate cose e poi invece la realtà dei fatti dice che le cose stanno in maniera diametralmente opposta, tanti piccoli fattori che poi alla fine... secondo me sarebbe il caso che l'Ischia forse alla fine del girone è andato alle prime avversità, probabilmente avrebbe fatto meglio mettersi in silenzio stampa, ma un silenzio stampa rigoroso e collettivo, perché quando poi alla fine si dicono determinate cose si dicono determinate cose e poi a distanza di 2 mesi queste cose poi si ribadiscono, poi dopo un mese dice no, ma non è vero quello che ho detto 3 mesi fa, 2 mesi fa, il mese scorso. Qua ci sono tranquillamente i giornali, le cassette televisive, ci sono testimonianze di situazioni, cioè l'Ischia, il campionato dell'Ischia non è stato, l'Ischia è partita per vincere il campionato nella maniera più assoluta, per la prima volta dopo 20 anni siamo partiti addirittura ad aprile a maggio a costruire la squadra, quindi determinati alibi lasciano il tempo che trovano. L'Ischia, lo ripeto, può anche non vincere il campionato, però determinati errori, un passo indietro tutti, insomma, sicuramente in buona fede, alla fine dovranno essere ammessi. Anche io ho commesso degli errori, anche io, sicuramente ci mancherebbe altro. Io probabilmente faccio un esempio stupido, io ho visto due sabati fa stavo a letto, non stavo bene, ho visto l'Impiagnonese Ancona, ho visto Keita, quel ragazzo nero, ragazzo di colore che quando venne a provare 2 anni fa, quando facevi il commissario, mi piaceva in maniera esponenziale. L'allenatore disse: Giovanni, non mi serve, perché quello ci vuole un pallone solo per lui. Probabilmente questo ragazzo da un anno all'altro avrà fatto dei miglioramenti eccezionali, è stato uno dei migliori in campo insieme a Nicola Simone. Però a questo punto dico io, la squadra dell'anno scorso non è stato salvato niente, va benissimo, ognuno si assume, però questo è sempre nell'ambito, e mi dispiace che l'errore pure è nostro, Giovanni, questo perché... è sempre nell'ambito delle responsabilità che si è assunto di chi ha costruito la squadra, perché dell'anno scorso non dico niente, 3-4 ragazzi, forse due di fuori e 2 di Ischia che potevano tranquillamente far parte di questo, sicuramente, gruppo. Qua ci vuole un elogio a Vincenzo, benissimo, però tutto, anche le spese superflue, perché se mi porti un giocatore che è più scarso di quello che stava l'anno scorso, magari guadagna probabilmente 300 euro in più per 8 mesi, per vitto e alloggio, queste sono cose che possono anche, anzi non dovrebbero completamente interessare il tifoso, però queste sono situazioni che comunque si vanno a protrarre su una gestione, e una gestione fallimentare non soltanto esclusivamente dal punto di vista tecnico, ma soprattutto dal punto di vista del bilancio, ti porta a fine campionato comunque avere delle situazioni che poi comunque le devi in un certo qual modo risolvere e poi ripartire. Determinate situazioni che potrebbero quest'anno, al termine di questa stagione sportiva, ripercuotersi sul bilancio, quindi sugli scenari sviluppi della società, poi si vanno a ripercuotere queste situazioni su chi dopo deve riprendere. Può essere anche l'attuale società, può essere anche una società più forte, potrebbe essere anche una società più debole di quella attuale. Quindi inficiare, quello che potrebbe essere la prosecuzione dell'attività sportiva delle persone che sono poi in futuro incaricate di prendere per mano persone che potrebbero essere anche quelle attuali, ci mancherebbe. Quindi quello che succede quest'anno, le decisioni che sono state prese in tempi non sospetti, potrebbero ripercuotersi anche sulla, anche su una eventuale Serie C l'anno prossimo, ci mancherebbe. Partire con un piccolo fardello di debiti che poi sono situazioni, ripeto, sottolineo, che ai tifosi non possono interessare, però alla fine se viene prospettato un certo quadro, poi quel quadro fra due mesi è contrario di quello che viene, di quello che è proferito in giro, alla fine sono questioni abbastanza delicate, che ripeto, sottolineo, chi ha il potere, chi ha in mano il quadro della situazione a livello societario, può anche dire, ma Giovanni Sasso queste cose che gliene frega, Pierangelo le pesce queste cose che non gliene frega. Invece il problema, noi, al di là di tutto, abbiamo vissuto nel recente passato situazioni di questo tipo, e la preoccupazione di Pierangelo Pesci, di Giovanni Sassi, di Ivan d'Italia, di Ivano Bondon e chi per esso, è proprio questa, il ripetersi, il susseguirsi di situazioni che abbiamo già vissuto, in termini non sospetti, sia a livello dilettantistico, sia a livello professionistico. Quindi quando ci vogliono mettere il cupolicchio, come si suol dire in destra, state calmi, noi stiamo calmissimi, questa società, chi ha operato, chi ha agito in questa società, allenatori, direttori sportivi, direttore generale, presidente, quest'anno hanno lavorato in un contesto di massima calma e di collaborazione, totale. Quindi qui i tifosi si sono fatti sentire, i tifosi, che poi alla fine quello è uno sfogo che fece Federico De Angelis, uno sfogo quasi a livello personale con Mandragora, il tempo che trovo, 7 minuti, 8 minuti, ritornata alla calma, se la vogliamo definire una cosa, sia stato un faccia a faccia tra un tifoso storico e l'allenatore. Non si può manco parlare di contestazione, quindi alla fine la società, la squadra hanno lavorato in un clima tutto sommato così. Poi se si vogliono poi alla fine scaricare le responsabilità sulla stampa, grande ciò, io non ci sto nella maniera più assoluta, perché qua il problema è per la Concordia o la Costa Concordia, come abbiamo scritto stamattina, ormai lo scoglio l'abbiamo preso, la falla c'è sta. Ma cerchiamo di tenere la barca quanto è più dritta possibile, se no manca il sciroppo di salvataggio, possiamo mettere a mano. Ma questa è fuori discussione. Ma saremo sempre lì. Rappresentano quel sistema che ha detto, il problema è tecnico, sicuramente non ci piove. Dietro al problema tecnico ci sono altri problemi. Io quel tipo di problema non mi voglio interessare, perché sono sicuro che chi è in società e chi entrerà in società successivamente saprà gestire i problemi, li saprà gestire e li saprà risolvere. Adesso bravo, ci dobbiamo concentrare su questo problema. Però tappare la bocca, la somma di queste problematiche, poi alla fine quando sarà messo sul tappeto, sarà discussa la società. Alla fine responsabilità se le devono prendere tutti indistintamente. Bravo. Indistintamente, nella maniera più assoluta, è inutile trovare gli alibi, le scappatoie, perché quello che è successo domenica dopo la partita è una cosa gravissima per quello che è successo sugli spalti, ancora più grave quello che è successo all'imboccatura degli spogliatoi. Io in tanti anni di calcio una cosa del genere non ho mai visto. A me dispiace solo una cosa, che Alessandro Margiri è passata alla storia dell'Ischia Calcio come primo dirigente della storia dell'Ischia Calcio a prendere le botte. Probabilmente se ne sarebbero meritate ben altri dirigenti, ma infatti, che hanno fatto dei guai esponenziali. Infatti, Margiri, mi dispiace per lui. Veramente sono rammaricato per quello che è successo a quella. Però quest'anno si stanno verificando delle situazioni che a volte si porta, ve l'ho detto, il nostro difetto, mi metto io in testa a tutti quanti, estremizzare certe situazioni, perché alla fine comunque sembra la passione che ci porta a sottolineare, però se ci sono magari delle esternazioni anche forti, se ci sono delle magari in quel momento la contestazione, il rimbrotto, fa parte praticamente del gioco, contesto quando del si gioco, fa a teatro il gioco delle parti, l'artista stick se pigli i fischi, così come chi paga il biglietto ha sempre detto, ovviamente senza esagerare, però quello che è successo nel dopo partita è veramente qualcosa che onestamente io non mi ricordo un dopo partita così triste, dove non sono coinvolti né dirigenti né calciatori e né tifoseria avversaria. Abbiamo fatto tutti noi, tutto in casa. Di noi. E l'unica cosa che mi dispiace è che purtroppo da questo teatrino abbiamo riportato all'esterno un'immagine non proprio positiva, anche perché qualcuno, e questo va sottolineato, lo sottolineo con la con la massima forza, la massima franchezza. Qualcuno ha riportato all'esterno delle situazioni probabilmente in maniera un pochettino forte, tanto è vero che qualche giornale stamattina ha scritto che addirittura Pisano avrebbe preso le botte negli spogliatoi. Allora poi quando vengono riportate all'esterno certe idiozie, poi alla fine mi viene anche sto... Come la stessa dichiarazione di Mandragora, che disse che quella non è la squadra più forte che lui aveva mai allenato. Queste sono esternazioni che comunque si ripetono fuori loro, settimana dopo settimana. Quando riportate nel napoletano certe affermazioni, cioè domenica sera mi hanno chiamato persone che erano talmente preoccupate che si pensavano che probabilmente i tifosi di Lisca avevano smontato la pensilina e l'avevano tirata addosso ai Carlino Boys, a Crisana, a Malgiri e tutto. Cioè non è successo assolutamente questo, è successo un episodio grave da stigmatizzare, da condannare, però naturalmente se uno condanna e stigmatizza l'episodio che è successo alle 5:05, deve stigmatizzare anche quello che è successo alle 5:04, perché altrimenti tu non puoi chiudere un occhio di qua e fare la sottolineatura, esatto. L'occhio di destra non può guardare a sinistra e quello di sinistra guardare solo a sinistra. Lo devi giudicare a 360 gradi. Sì. No Giovanni, qua io te lo ripeto, qua sai cosa si vuole far passare? Che Pompei è stata distrutta da un'enorme abbondantissima nevicata, questo si vuole far passare, che non è stato il Vesuvio, quindi il calore, la lava, ma tutta neve che cadeva, gente, mentre faceva i pupazzi di neve si sono trovati seppelliti dagli stessi pupazzi o da bottiglie di pomodoro, esattamente. Le bottiglie di pomodoro. Giovanni, noi ti ringraziamo, sei stato preziosissimo. Complimenti come sei per il tuo intervento, Gio. Così mi sono anche liberato, mi sono anche, diciamo... Allora praticamente abbiamo fatto un po' di terapia per far finire questo calco, Giovanni... pure voi avuto modo di ma la terapia vomito, insomma... Hai provato? No, vomito sul campo, non ti è servita a niente a livello biliare, non insomma niente? No, probabilmente... Mi dispiace, Gio, mi dispiace. Ho sofferto di meno quando stavo male. Che certe cose poi ti entrano dentro, non ti fanno riposare, non ti fanno. Comunque, dormire. Scherzi a parte, speriamo che ti metti. Ti svegli una schifezza. Perlomeno per la salute, Gio, che se... Ti svegli una schifezza. Io spero solo domenica di regalare un brutto scherzo agli amici di Caserta. Tra i colleghi giornalisti sono tutti degli amiconi di prima. Non come attore del Greco. No, ma è tutt'altra pasta. Sono ragazzi veramente eccezionali, cominciando dalla detto stampa Massimo Iannitti, che poi è la memoria storica della Casertana, che ha delle qualità umane che vanno al di fuori di qualsiasi altro. Giovanni, scusami, è una persona che ama la Casertana probabilmente più di tutti noi messi assieme ama l'Ischia. È una persona che ne sta fatta anche lui le collette fuori, mettendo il banchetto fuori al pinto, prendendosi le botte da qualche imbecille che telecomandata da qualche Francia estrema. È una persona che merita rispetto solo per questo. C'è Ivano che ti vuole dire una cosa, poi chiudiamo. Aspetta un secondo. Sì. Vai, Ivano. Ciao Gianni. Ciao, buonasera. Senti Gianni, ma tu in settimana, diciamo, come in qualità di giornalista vai a seguire il ritiro dell'Ischia? Ci sto facendo un pensierino. Ovviamente loro se fanno l'amichevole, perché se fanno l'amichevole a ranghi misti, diciamo, ci sarebbero, diciamo, poche indicazioni. Se ci sono buone possibilità, che fanno qualche amichevole. Ti volevo lasciare un messaggio se andresti per il mister, che lui dice sempre: con queste partite gli occhi della tigre non ci vuole né la tigre né il leone, questi li facciamo stare allo zoo. Dici, ci vogliono i coglioni, le palle per vincere a Caserta. Grazie Giovanni. Lo so. Questo ti volevo dire. Purtroppo affrontiamo una squadra che a noi mancheranno sicuramente Manza e Mazzeo, che verranno squalificati. Loro qualche assenza ce l'hanno, ma non di rilievo. Sicuramente avremo delle assenze abbastanza importanti. A questo punto mi auguro solo in due cose, spero che si combacino, che si coniugano due fattori che possono portare alla vittoria dell'Ischia. Uno, diciamo, è il senso di rivalsa che può avere Sarli a 360 gradi, sia per questioni che sono successe quest'anno, sia per la mancata di conferme in estate a Caserta, che poi lui è un casertano di adozione, avendo sposato una ragazza di, di Caser. E poi un'altra cosa che me la tengo per me, ma che diciamo in altri fattori ha portato più che bene. Il riferimento è una questione scaramantica che un amico mi ha ricordato un episodio che assomiglia molto alla vigilia di Ischia, di Casertana a Ischia. Spero che questo amico abbia ragione, che probabilmente questo stellone si accenda, rimanga acceso fino al 6 maggio. Giovanni, io ti ringrazio per l'intervento, davvero buona serata. Ciao Giovanni, ciao. Bene, Rocco, allora, come giudichi tutto questo? Come indipendentemente Mandragora, questo ritiro, l'area è molto tesa a Ischia, cioè, sì, dove c'è qualunque capannello di tifosi si formi, c'è elettricità nell'aria. Speriamo che domenica una bella vittoria a Caserta, che magari possa stemperare, anche se la Casertana, come dicevo prima, sta attraversando è una squadra ben organizzata, l'allenatore in base alla squadra che gioca a Caserta, lui cambia il modulo. Esatto. È una squadra ostica. Poi sono a due punti da noi. Loro sono a 5 punti al primo posto e due punti da noi. Sono arrivati proprio alle calcagne. Penso che faranno di tutto per... Calcola che 17 partite fa, ovvero prima che arrivasse Ferrara, erano poco al di sopra della zona playout. Immagina che rimonta che si hanno fatto dal 20 novembre a tutti. Silenzio, poi. Tutto in silenzio, senza uscire. Con un Maiella che segna a dismisura, 23 gol, se non mi sbaglio fatto. Sì. Si conferma sempre un animale di categoria, Maiella. Sempre, quando va male fa 16-17 gol a campionato, anche quest'anno. Comunque, noi purtroppo c'è il giocatore che ci faceva un sacco di gol, ce l'avevamo, che era Mazzeo, si è fatto male, si è sacrificato, insomma, alla casa si fece male, è stato fermo tanto tempo, è un ragazzo che comunque si è sempre dimostrato presente per la maglia dell'Ischia, è un ottimo elemento. Come del resto poi la maggior parte delle persone che io credevo che magari vestissero in maniera degna quel tipo di colore che è quello giallo-blu, quindi della nostra fede. Poi qualcuno purtroppo ti delude, qualcun altro viene meno, insomma queste sono le situazioni che si ripetono, cose che non è successo negli anni scorsi quando c'era un certo Peppe Matre, c'era un certo Vincenzo Mondi, c'era Sogliuzzo, ed è purtroppo io, proprio per un'onestà che ci deve essere, devo dirlo, perché se lo meritano questi ragazzi, se lo meritano. Sì, Ivan, se hai da voglia leggilo. No, io leggevo un messaggio che ha messo sul nostro gruppo una tifosa dell'Ischia, Marina Tortora. Veramente ha lasciato, a mio giudizio, un bellissimo messaggio. È un po' lunghetto, però lo leggo un po' velocemente. Davvero un bel messaggio. Allora, lei ha scritto, innanzitutto la saluto perché ci segue tutte le volte, viene a vedere l'Ischia. Buonasera a tutti, sono giorni ormai che leggo parole di rabbia e delusione su queste bacheche. Io ho cercato di evitare, perché con la rabbia si dicono parole sbagliate ed offensive, ma stasera leggo il golfo, la rabbia prevale sulla razionalità. Io capisco la rabbia dei tifosi di domenica, non la condivido in pieno, perché la violenza non è una buona cosa, però la capisco che quando l'arbitro ha fischiato la fine è stato un colpo al cuore, molti hanno visto sfumare un sogno, anche se per me non tutto è finito, e la rabbia ha preso il sopravvento. Capisco gli sfoghi contro un allenatore che nessuno ha mai voluto, ma che la società ci ha imposto e che tutti hanno accettato per il bene dell'Ischia e anche per la fiducia che si nutre per questa società, che fino ad oggi non ha deluso. Ma sinceramente non capisco quando un dirigente o un direttore dice ai tifosi: incominciate a fare la colletta. Cosa? La colletta? E quante collette devono fare ancora questi tifosi per vedere realizzato il loro sogno? Ed ancora voi, società, non dovreste calmare gli animi dei tifosi, rassicurarli per il futuro? E poi, scusate ancora, si dice che è inutile cambiare allenatore a 6 giornate dalla fine, e su questo posso anche essere d'accordo. Ma se il signor Mandragora si fosse dimesso, ed aggiungo che secondo il mio modesto parere doveva farlo già tornati da Casarano, la società non avrebbe dovuto prendere lo stesso provvedimenti? Non lo so, forse sto dicendo un mucchio di scemenze, forse la rabbia che mi fa parlare. Vorrei concludere dicendo a voi tifosi storici, ma anche agli altri, che io vi ammiro e che siete sempre stati i miei idoli, e confido in voi per una rapida ripresa del morale. Scusate per lo sfogo, e sempre Forza Ischia. Bravissima, un applauso veramente sei stata piacevolissima. Io non l'avevo letto questo messaggio, sei stata grande, sei stata veramente chiara. Chiara, anche perché sono i miei sentimenti. Insomma, oggi mi impossesso dei sentimenti altrui con estrema facilità. No, comunque hai detto veramente quello che provo io. Non è possibile fondamentalmente ripeterlo in maniera migliore ed esternare quelle che poi sono tutte quella serie di emozioni che durante i 90 minuti si susseguono. Io, pensate, praticamente a me mi è scesa l'ernia per colpa dell'ischio. Io ho un'ernia inguinale da urlo, quindi tutte le volte che dopo la domenica io ho il dolore al piede, il dolore all'inguine, e non dico dove anche l'altro dolore c'ero. Possiamo immaginare. Viviamo in questa situazione costante, quindi io mi sono rovinato l'esistenza e anche il canale inguinale per colpa dell'ischio, quindi... C'è anche un bel messaggio che ci scrive Salvatore da Unpack Live. Allora, lui scrive sempre in prosecuzione il messaggio di Marina: saluti agli ospiti in studio, sono del parere che dobbiamo stare vicino a questo gruppo, compreso questo allenatore, anche perché alla vetta mancano solo 3 punti e ci sono ancora 6 partite. Ci mandiamo... Scusami, Unpack ha ragione, però vorrevo ricordare a tutti che ce ne mancavano 2, quindi se noi continuiamo a dire che ce ne mancano 3, domenica prossima ce ne mancano 4 a 5 dalla fine. Sì, ma meno, cioè, non so. Aggiunge: altre soluzioni non ce ne sono, se vogliamo ancora credere a quel minimo di possibilità di vincerlo. Se non lo vinciamo, comunque ci resta, a mio parere, un'ottima società che verrà affiancata da altri imprenditori altrettanto buoni, per non dimenticare il progetto triennale, lo stadio, eccetera eccetera. L'anno prossimo si potrà decidere meglio sull'allenatore, migliorare la difesa e aggiungere alla rosa qualche isolano in più. Forza Ischia, dobbiamo vincere a Caserta. Certo, qui nessuno ha ragione, Sabato. Comunque la società, per l'amor di lungi da noi, mai, saremmo mai, solo mai. Dei folli, dei masochisti. Noi ci permettiamo solo di giudicare questo non allontanamento di Mandragora, ma lungi da noi che questo si mettesse bene in chiaro, che qui nessuno, e sottolineo nessuno, sono contro questa società, anzi noi, non, come ha detto Pierangelo all'inizio della trasmissione, non smetteremo mai di ringraziare per quello che hanno fatto, perché i giocatori che abbiamo visto quest'anno, i Visarli, Mazzei, Ercolana, Ausilio, Gianni Di Meglio, Scarla, cioè è una sommatoria di giocatori che se pensiamo che da settembre ad oggi abbiamo visto questo po' di giocatori, a me tuttora non sembra vero, no Ivano, come la pensi? Sì, sono d'accordo, noi abbiamo già più volte ringraziato ancora la società, come ho detto prima, abbiamo visto quest'anno giocatori di qualità e anche di quantità. Ci è venuto a mancare purtroppo la cosa più importante, la gestione di questo gruppo, perché noi veramente in molte abbiamo avuto più possibilità per andare in fuga, invece siamo lì dietro e... Speriamo ancora che alla fine possiamo gioire. Lo sa che i Bacinelli tieni i chiacchiere. Ma io con la Casertana veramente ho visto la Bacinella, poi non l'ho vista più questa Bacinella. Ma che probabilmente la Bacinella che sa di... Vabbè, io non voglio perché poi dice che facciamo polemiche, ragazzi, ne lasciamo stare. Perché è meglio lasciare stare. Comunque scherziamoci su. Comunque mi sembra, grazie a queste, effettivamente a queste cose, mi sembra di tornare indietro nel tempo, sapete perché? Perché carnevale è passato, però tutte queste chiacchiere mi fanno vivere un'euforia e un'atmosfera carnevalesca. Ci manca che solo che io esco vestito da Ben 10 qua giù e comincio a lottare con gli alieni. Questo mi aspetta che dovrebbe esserci un alieno che mi aspetta qui sul motorino, perché dopo tutte queste chiacchiere proprio sono quasi drogato di chiacchiere, non riesco a respirare praticamente, chiacchiere a bizziffe. Ma infatti io ho fatto la scommessa con Mauro Cozzolino di 1000 euro io e 100 euro lui, che è lì che vinceva il campionato, quindi io sono pazzo, ci siamo bisticciati tante di quelle volte giù da... E lui diceva che l'ISC non vince questo campionato e io ho detto: tu ti giochi 100 euro e io mi gioco 1000 euro. Che l'ISC. Quindi io sono pazzo, io sono contro la società, sono contro tutti e mi giocavo i soldi con lui. Questa è la data di fatto. Ecco qua, questo è il discorso. Sono chiacchiere da bar, pallone chiacchierato, invece qua dobbiamo buttare la palla dentro, pure i giocatori, troppe scusanti, però buttate la palla dentro. Ma è buono che sono andato a Telisa, là ci sta l'acqua che fate, praticamente. Non so, ci vuoi... Non lo so, facciamoci una risata, dai, sì. Sdrammatizziamo questo. C'era Maurizio Marina che prima aveva chiamato sul cellulare perché voleva intervenire, ora non lo so, se si è liberata la linea, se lui vuole telefonare, 081 98 92 85, così come tutti gli altri tifosi dell'Ischia che ci stanno seguendo sulla rete sono ben accetti se volessero fare due chiacchiere con noi. Rocco, come ti vedo proprio triste? Non c'è il famoso cappellino. Uno Cauri pazzo, non so come faceva lui in capo. Perché lì per lì a Casarano specialmente non te lo volevi togliere? Ma non è che non volevo togliere, ma era perché proprio in quel momento non... Non ragionavi più. No, proprio vedevo quella squadra assente dal primo secondo all'ultimo secondo del novantesimo. Sì. Non assente, non pervenuto, differente. Incluso Davide Trofa. Che non giocò poi fondamentalmente, quello entrò. Fu sostituito Davide. Guarda Rocco, io ti dico una cosa, non tanto la partita persa domenica 1-0, dai, qualche episodio c'è stato al nostro sfavore, ma io penso a Casarano, è impossibile. No, a Casarano impossibile proprio. Una squadra della nostra caratura con quei giocatori non scendere in campo, cioè mentalmente scarichi, non c'era, impossibile. 1100 chilometri di fumo, e se noi perdiamo il campionato, io mi auguro di no, se noi lo perdiamo questa partita peserà molto più del pareggio dell'Inter-Napoli. Ma speriamo comunque di arrivare primi alla fine. Io so sempre questa cosa. Mi piace anche sottolineare determinate cose per i numeri, insomma Chiariello, la prestazione di Chiariello che è stata veramente fatto trovare pronto quel ragazzo, nonostante abbia avuto un sacco di critiche poi probabilmente inutili dopo Martino, perché il ragazzo si è impegnato, purtroppo tatticamente non era supportato perché non è stato mai raddoppiato, insomma la marcatura su dei portatori di palla veloci come Picci e Damodè che si scambiavano. Comunque il ragazzo domenica veramente mi ha fatto piacere vederlo, perché vuol dire che lui ha gli attributi, cose che probabilmente manca a qualche altro giocatore che si fa praticamente, come si dice, indottrinare, insomma chi vuole capire capisca. Comunque bravo Chiariello, bravo Pasquale Chiariello, non dar retta perché l'allenatore che abbiamo lì probabilmente non capisce tanto, perché se non erro si è allontanato anche un altro ragazzo per colpo di qualche allenatore che, di nostra conoscenza, che si chiama Manna, che non vedo più sul campo. Quindi cerchiamo di valutare anche altre cose. Bravo Chiariello, vai per la tua strada, lascia stare che sei un ragazzo valido, sei un ragazzo valido e hai soprattutto il coraggio che è dalla tua parte. Bravo. O no Ivan? Ma assolutamente, lui purtroppo quella giornata dell'8 gennaio a Martina fu capitò che da solo dovette, perché vabbè non c'era Micallo, Scarlato era a mezzo servizio, Gianni Di Meglio entrò dopo, ha avuto la sua sfortuna proprio di tra virgolette debuttare nella partita meno adatta, con un pitch, con una Amodeo indiavolata, però per fortuna non è caduto in una spirale diciamo di depressione. Quando si è reso necessario il suo utilizzo si è fatto trovare pronto e domenica, a mio giudizio, come dicevi tu, però, ha giocato una breve fauna. È proprio a lui dedichiamo questa canzone, vero Mauro? Insomma, anche un momento musicale. Questa è la dedica con Chiariello. A tutti i tifosi dell'Ischia e a tutti quelli che ci vogliono bene, e soprattutto a tutti quelli che hanno la mia fotografia a testa a letto, sul comodino. Siete i migliori, soprattutto voi che avete la mia immagine. Sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento, e poi magari piove. Mino cammina che sembra un uomo, con le scarpette di gomma dura, 12 anni e il cuore pieno di paura. Mino, non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. E chissà quanti ne hai visti e quanti ne vedrai, di giocatori tristi che non hanno vinto mai, ed hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro, e adesso ridono dentro al bar. E sono innamorati da 10 anni, con una donna che non hanno amato mai. Chissà quanti ne hai veduti, chissà quanti ne vedrai. Nino Gabi fin dal primo momento, l'allenatore sembrava contento, e allora mise il cuore dentro alle scarpe e corse più veloce del vento. Prese un pallone che sembrava stregato, accanto al piede rimaneva incollato. Entrò nell'area, tirò senza guardare, ed il portiere lo fece passare. Nino, non aver paura di tirare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. Ragazzo si farà, anche se ha le spalle strette, quest'altro anno giocherà con la maglia numero 7. Sono disponibili fotografie di Pierangelo Pesce. Questa è Radio Treccia. Ascolta. Siamo in linea allora. Mentre andiamo ad aprire la porta per vedere chi è, probabilmente il Principe Morris, che è qualcuno che ci viene a trovare. Allora, Ivan, come definisci questa situazione alquanto bigotta? Guarda, Pierangelo, ti dico una cosa, che da dopo Casarano in poi si sta vivendo un sentimento di... Sì, siamo passati da una contrapposizione di sentimenti incredibile, già si parlava di C1, c'era una pacatezza, una serenità, e nel giro, dopo quella maledetta gara a Casarano, proprio la tensione, insomma... è palpabile nell'aria, a volte pure tra di noi litighiamo, cioè non parliamo di qualunque, come si parla dell'ISCH, litighiamo per un'unica sì. per ogni singola sciocchezza. Questo è brutto, come una situazione bruttissima, e ciò fa capire proprio veramente quanto ci si tenga. Vabbè, non è che litighiamo, cioè qualcuno che esagera nello scrivere, nel dare dei giudizi. Lasciate la libertà di esprimere i pensieri a persone che comunque sono da una vita vicino all'ISCH. Poi il dato di fatto è questo qui. Poi che voi andavate a fare trasferte, questo è tutto da vedere. Il dato di fatto è che io ci sono sempre stato, Ivan c'è sempre stato, Ivano la stessa cosa, Rocco da ragazzo adesso, cioè, io l'ho visto, l'ho conosciuto in quello, l'ho visto qualche volta, quindi non posso che apprezzare il fatto che venivano a Casarano. Per il resto, a Terni eravamo 33, ad Ercolana erano quelli che erano, a Cosenza eravamo 15, insomma io tutte le lì c'è, sono le fotografie a testimoniare, io non è che vedo questo fiume di gente che dice andavamo, facevamo, adesso con questo ripeto, lasciate la libertà e il piacere alle persone di dire quello che vogliono. Di dire quello che vogliono senza imputare poi il fallimento, perché se c'è fallimento, se dovesse essere fallimento, sappiamo di chi è la colpa, chiamiamo con nome e cognome le cose senza andare a cercare figlia, perché poi a questo punto io come Ivan e come gli altri ci arroghiamo il sacrosanto diritto di dire che all'inizio di luglio eravamo solo noi a credere in questa cosa, no Ivan, scusami. Esprimiti pure tu in questo senso. Sicuro, perché io mi ricordo come se fosse ora, era la fine di maggio che facevamo il primo incontro con Crisano, tra lo scetticismo generale di tutti, mi ricordo benissimo. Chissà che è venuto a fa, chissà che non è venuto. Eravamo io, te, Mauro, Ciro, Mauro, Gennaro il tabaccaio, Francesco Zabatta e un'altra persona che ora... Un maresciallo Piscio. Il maresciallo Piscio, bravo, che anche lui venne con il suo pantaloncino, il suo immancabile sigaro. E tutti quanti dicevano, ma che è andato a fare? Questo è l'ennesimo fallimento, la solita presa per il culo, le solite cose. Poi pian piano si sono allineati tutti coloro che inizialmente nutrivano dello scetticismo. Per fortuna poi, ripeto, la società ha dimostrato con i fatti il proprio valore, andando avanti, commettendo qualche piccolo peccato di gioventù, che lo ripeterò, se è peccato di inesperienza di gioventù, però con i fatti hanno dimostrato che sono andate avanti, hanno coinvolto personaggi importanti, non per ultimo domenica erano presenti sulle tribune del Mazzilla Punzo e Celentano, che non ve li devo presentare io, sono stati anche nell'organigramma del Calcio Napoli, c'era mezzo CIS di Nola presente sulle tribune in termini di dirigente, insomma la società è andata avanti, sta tenendo fede al suo programma, ripeto, tranne qualche peccatino di gioventù non gli possiamo imputare assolutamente ma non gli vogliamo imputare noi. Non imputeremo assolutamente nulla. Però io, Mandragor, a me non piace. Ma non solo tu, Perangelo, Ischia ha 60.000 abitanti, 50, forse solo 2-3 persone. Io lo dirò, lo dico, non mi interessa. Mandragor non ci doveva stare sulla panchina dell'Ischia. Mandragor, qual è il problema? Mandragor, qual è? Non ci doveva stare assolutamente, ha commesso degli errori, ha una spocchia che onestamente a me non piace come si propone, mi irrita. Barricchina, Bacinella. Lui doveva essere umile, semplicemente doveva essere umile e dire, doveva riconoscere il fatto che per lui era un onore sedere dove si è seduto dal 20 novembre in poi e non doveva lasciarsi andare. Già la prima gara contro la Casertana, quelle sceneggiate di cui è così, basta, solo questo. Per il resto, grazie alla società, onore alla società, e saremo con loro e seguiremo il loro programma che sta portando avanti Crisano e che sta proseguendo Carlino. Dovremmo avere in diretta l'amico Maurizio Messina, giusto Maurizio? Ecco. Buonasera a te e grazie per averci telefonato. Ho saltato il pezzo che dal bar a venire a casa, quindi forse avrò perso qualche passaggio. Però io volevo dire che siete proprio catastrofisti. Io sono un ischitano di sangue, ma per fortuna mi sento genovese in certe situazioni. Ma qua la catastrofe che c'è da domenica in poi è clamorosa, dai. Siamo a 3 punti, abbiamo ancora 18 punti a disposizione. Ma perché ci dobbiamo fasciare la testa ancora prima di rompere? Io è questo che non sto dicendo a tutti quanti. E piano piano vedo che si sta sbollendo la rabbia, perché effettivamente la rabbia domenica l'abbiamo avuta tutti. Però ragazzi, abbiamo visto un primo tempo in cui la Sarnese è uscita fuori dalla metà campo, credo dopo 35 minuti. O no? 20-25 È stato gente vicino a me che diceva la più bella partita dell'Ischia giocata fino adesso. Se andiamo a vedere, non era sbagliata la situazione. È successo quello che è successo, le due traverse. Cioè, io in questi giorni ho cercato di mettermi un poco anche nei panni di Mandragora, di Crisano. È chiaro che un direttore sportivo in certe situazioni avrebbe fatto meglio a scappare, perché non è la parola giusta, però a defilarsi un attimo, nel senso che se tu hai devi far sbollire la rabbia a delle persone, è meglio se non rispondi. Questo esatto, bravo. È successo. Però io credo che lui per primo sia anche pentito di tutto quello che poi è successo dopo. Io ho anche scritto sul suo blog, sul suo profilo, sul suo diario di Facebook, gli auguri per una guarigione, perché per quello che è successo dopo, figuriamoci. però questa squadra è sua figlia, quindi voglio dire, gli errori... con chi ce la dobbiamo prendere? Con la pianta di un Leandro fuori al campo? Che è il discorso? Cioè, uno deve avere un interlocutore, forse non l'ha capito. Che il direttore generale è l'interlocutore di tutti, non è che posso andare a parlare con lo Leandro. Cioè, poi se vogliamo andiamo tutti quanti sotto al muro del pianta, ci facciamo crescere due riccioli lateralmente e facciamo insomma come se stessimo a Betlemme, insomma questo è il discorso. Ma Pier, il problema sai che cos'è? Che io ho avuto l'impressione, non so se anche voi l'abbiate avuta, ma che queste persone che da luglio agosto hanno incominciato a far crescere il progetto Ischia, si siano trovate improvvisamente a gestire, non voglio dire a pazzielle ma nei creature, però mano a mano che le cose venivano fuori, venivano coinvolte persone sempre in maggior numero, con situazioni, non voglio dire strane, però particolari, e a livello della società però mancava la professionalità per determinati ruoli. Certo. Davvero, prendere Pinuccio taglia la tela un mese fa, ma come l'abbiamo preso? Perché Migliaccio non poteva fare l'allenatore dei portieri ed è venuto lui lì. Cioè, anche questo è una cosa che bisogna capire. Poi quando hanno visto come è fatto Pinuccio, hanno detto no, ma perché non resti anche tu? Allora, se tu hai una società con lavori in corso, allora è normale che anche noi tifosi dobbiamo capire questo e dire ok, prima viene la società, poi dopo verrà la squadra. Sì, però Maurizio, io quello che voglio dirti, quando qualcuno, qualche blogger faceva qualche mese fa, quando eravamo anche primi classifica, faceva dei lenzuoli di post dove diceva che la partita con l'Under 21 non era quella, non era quell'altra, io tutte queste critiche non le ho viste soltanto quando qualche tifoso, cioè tutti questi tifosi che si proiettano con il petto gonfio a difesa di questa società, all'epoca dove erano? Cioè, quando si metteva in discussione la bontà della partita con l'Under 21, che non era merito di questo, di quell'altro, e che qua e quella, cioè, dove erano tutti questi, insomma, signori che adesso fanno gli scudi umani? Cioè, io quello non riesco a capire, perché si fa due pesi, due misure? Sì, ma perché secondo me mancano le persone di filtro giusto all'interno della società Ischia. Ma anche questo fatto che tu fai una riunione di qua, una riunione, poi nello studio di Senese, cioè come prima... Ma anche, Maurizio, scusami, a Martina Franchi, il caro direttore Crisane, che è il direttore generale, alle 2:30, stava in mezzo alla strada alle 2:15. Cioè tu sei il direttore generale, tu devi andare con la squadra, non posso andarci io. Cioè questo è l'ABC. Manca quella figura. Ah, ma io non lo posso dire io. E se una volta va bene, due volte va bene, Pierangelo non lo dice, Ivan non lo dice, Ivano Bono non lo dice. Io l'ho anche scritto, guarda, io sul gruppo, io l'ho scritto facendo un paragone con quello che aveva detto Boscop quando lui arrivò a Genova. Sì. Nella Sampdoria. E lui arrivò che l'anno prima la Sampdoria vinse la Coppa Italia. Primo trofeo assoluto per una squadra che era più che provinciale. Certo. Però a quel punto lui disse, sì, io qui c'ho Mancini, c'ho Vialli, però mi giro intorno e vedo solo il presidente Mantovani, che è un papa che caccia i soldi, certo, ma che intorno a lui c'è il vuoto. Certo. Cioè io se devo parlare con qualcuno, con chi parlo? Certo. Allora, queste sono le figure che mancano ancora all'interno del... E allora, caro Maurizio, piano piano è certo che perché quando tu incominci a manovrare qualcosa che hai fatto, che hai costruito, perché sta diventando troppo grosso, sta diventando grande, tu hai comprato campioni tutti, e non hai la possibilità di gestirli. Bravo. A questo punto tu devi mettere una persona là dentro, e questa persona, se non lo so se Pinuccio possa andar bene per questo fatto qua, però è già un qualcosa in più che prima non c'era. Ma sicuramente. E il discorso qual è? È che noi qua ci siamo trovati, se... Da primi a terzi, come mi diceva un tifoso del Martino con il quale ho uno scambio molto corretto. Il casino, se tu vai a vedere. Perché guarda, io lo sto dicendo, l'ho detto anche a Nunzio, l'ho detto anche a Ivano, il problema non è i tre punti che noi abbiamo perso con la Farnese. Oh, il problema amen. Sono i punti persi con l'Inter-Napoli. Santo Dio. Punti persi con la Torino all'ultimo minuto. Allora, tu quando già contro l'Inter-Napoli hai visto il casino che è successo, allora tu là, una persona deve entrare nello spogliatoio e incominciare a dire che sta succedendo. Assolutamente. Allora, se non c'è, tu da là dovevi già mettere la... E andiamo sempre cercando scuse, se quello non fa l'errore e se la scarpetta non praticamente non perdeva un tacchetto che non era quello là di metallo, era quello di gomma, che non era fatto a Taiwan ma da Bangkok, cioè queste sono le scuse. A un certo punto tu le scuse le puoi tirare una volta, due, ma poi come, sai come si dice, che le bugie hanno le gambe corte. Ah. Allora siccome noi... no, ma qua ci mettono le scarpe però, tenne il coscio corto, ma tenne i tac. Ma se tu lo sai che noi viviamo in un posto dove se tu pisci fuori dal buco in 5 minuti lo sa tutto il paese, quindi queste persone loro forse se ne saranno anche accorte che se uno fa tardi alla sera il giorno dopo tu lo vieni a sapere, ma neanche il giorno dopo, dopo un'ora tu lo puoi venire a sapere. Maurizio, scusami un attimo, io ti voglio dire una cosa, questo sicuramente, però se la gestione è infortunata, se un infortunio muscolare ha dei tempi di recupero e se tu il tempo di recupero non lo prevedi perché la sera vai facendo qua e facendo là e viene ritardato questo tempo di recupero, è una persona che è un tifoso, una volta non dice niente, due volte non dice niente, poi si perde, si pareggia una partita e incominciano i mugugni, incominciano i mali e si continua con la seratina e la partita e il bicchiere di vino, e questo continua a non giocare perché magari è normale che escono fuori queste cose, ma qua potrebbe io voglio dire una cosa, Chievo-Verona non è che adesso cioè come se ci trovassimo insomma a New York, è un piccolo centro, lì fanno del calcio, ma non è che stanno, l'Italia non è questo paese immenso dove ci sono delle lande, cioè, insomma non siamo in Columbia, siamo qui in Italia, questo è in qualsiasi posto si fa calcio e succedono queste cose, che sia la Serie A, la Serie B, la Serie C, il discorso è che il giocatore di una certa esperienza e di una certa professionalità determinate cose non le fa. Determinate cose, soprattutto durante la gestione di un infortunio, non le fa, perché va a proprio non coincidere con il giusto svolgersi degli eventi, perché tu hai condizionato a priori lo svolgersi degli eventi, perché tu hai costretto una squadra a giocare interamente e sempre e costantemente senza di te, dopo vogliamo avere anche parole e parole a fiumi, ma il dato di fatto che noi siamo messi con le pezze al culo a causa di una difesa inesistente, dove poi ce la vogliamo prendere con Chiariello, con Rainone che prende la traversa, con Superman che non è passato in quel momento, ma il dato di fatto è che qui ci sono degli infortunati eterni, uno che si fa male il sabato sera, il sabato in rifinitura, ma di che vogliamo parlare? Cioè il discorso è questo, caro Maurizio, il malcontento nasce anche da questo e non ammetterlo è come dire che veramente qualcuno molto più famoso di noi è morto di freddo. Questo è il discorso. Chieda, ti voglio dire una cosa, tu ti ricordi che quando Mandragora venne a Ischia, tu la sera della presentazione passassi dal bar con tutti quanti e c'era insieme, perché tu sai che io Mandragora lo conosco dal primo giorno, sì, che venne a Ischia anni fa, sì, e ti ricordi che noi eravamo nel bar, sì, e tu facessi presente... permettimi se io cito questo episodio, sì, sulla condizione atletica che non c'era, ma è vero che in quel momento lì tu dicesti, mister, noi qua dobbiamo trovare un preparatore atletico. Sì. Mi sbaglio? No, è vero, ma meno male che me lo dici tu, Mauri, perché qua ogni volta che io parlo sembra sempre un demonio. Adesso andiamo a verificare, no? Si è preso poi un preparatore atletico. Boh, il preparatore atletico, bene o male, quante partite, in quanto tempo può raddrizzare una scarsa condizione? Io penso che ci voglia almeno 25-30 minuti. Ma mi dice, certo. Ok? Ma non è che forse qualcuno è figlio, qualche infortunio è figlio di questa... vogliamo dire diversificata preparazione atletica? Assolutamente d'accordo con te. Assolutamente d'accordo con te, ma già l'abbiamo, lo dissi in demese. Allora, solamente che qua c'è qualcuno che parla di forze e di esplosioni, di forze esplosive, di esplosioni intergalattiche. No, e io a questo punto mi talgo fuori perché io sono un diffuso. Però, caro Maurizio, una caterba di infortuni vuol dire o cattiva gestione dell'infortunato, o vita non sana, o allenamento svolto in maniera poco seria. Ma che non vuol dire che il preparatore non è serio, perché il preparatore è serissimo, è che magari il giocatore è poco serio, probabilmente, perché i giocatori non amano correre e cercano escamotage, si cerca il lavoro breve, si cerca... Quando c'era qualcuno che tutti quanti noi ricordiamo bene, faceva e proponeva dei lavori aerobici totalmente differenti e noi avemmo quell'anno zero infortuni. Ma con questo sia ben chiaro, non è che accuso Bruno, perché Bruno è venuto ed è susseguito, quindi non ha potuto esprimere il suo valore al 100%, nel senso che se avesse fatto tutta la preparazione sarebbe... Ma per carità, io no, Dio me ne liberi da pensare male di Bruno, eh. Dio me ne liberi, nel senso che è un ragazzo serio, lavoratore, sempre presente, io non discuto assolutamente, non mi permetto assolutamente. Probabilmente se avesse fatto il ritiro la situazione sarebbe stata differente. Torniamo al discorso iniziale. Certo. Cioè noi ci siamo trovati, io da un lato la colpa non la vorrei darla a tutti e a nessuno. Bravo. Perché in questo momento non serve a niente, però nella discussione è che effettivamente quest'anno si sono commessi degli errori che magari gli altri anni non si erano commessi, però gli altri anni non c'erano neanche i soldi per pensare a commetterli. Certo. Non so se mi spiego. Certo, certo. Cioè, gli anni passati non avevamo mai avuto i campioni che abbiamo avuto, voglio dire, sì. Però io ricordo ragazzi sempre di un impegno massimo, e tu ne sei testimone, come Gaetano Musil, come aiutatemi a dire, tutti i ragazzi, Ciro Imbagliazzi, Gianfranco Ma, insomma ragazzi che si sono sempre battuti all'ennesima potenza. Questi qua, è addirittura Manzo che batte 7 calcio d'angoli da ridere, da Circo Togni. Sì, ma cos'è? Ma il discorso dove volevo arrivare è che secondo me a un certo punto nella gestione degli under, nell'acquisto degli under e quindi nella loro gestione, sì, correggetemi se sbaglio, sì, ma la mia impressione è che si sia preservato l'acquisto di questi under così, giusto per fare numero, sì, e soprattutto ragazzi di giocatori difensivi. Ma ragazzi che conoscevano loro, che noi ci siamo fidati al 100% nelle loro, ma qualcuno era anche bravo, nel senso che... Sì, però tu quando fai affidamento su una difesa con Carlato, che è più di un anno che non gioca, sì, Gianni Di Meglio l'abbiamo visto a dicembre, a gennaio. Sì, a Brindisi, fortunatamente ha giocato a Brindisi. Sì, e quindi però... Sì, dopo, sì, no, dico insomma... E quindi a quel punto lì, e anche lui dopo oltre un anno quasi che non giocava. Micallo, che ha giocato l'anno scorso a Procida, ma era l'unico che poteva mantenere la situazione. Ma poi il resto, quando tu vai a prendere comunque under, e tu lo sai che il ragazzo giovane ha più difficoltà a inserirsi, ha più facilità a essere distratto, capisci a me? Sì. E quindi è chiaro che poi il problema del reparto più pericoloso, no, tra virgolette, è la difesa. Perché tu quando in attacco hai gente che comunque se gli arrivano i palloni la butta dentro, è normale che poi quando vai in difficoltà nella difesa. Ma siamo pienamente d'accordo. La tua analisi è proprio perfetta, Maurizio. Noi veramente ti ringraziamo per il tuo intervento preziosissimo. E niente, speriamo che domenica ci sia questa inversione di tendenza. Ma magari, non possiamo che sperare altro, perché vincere domenica a Caserta veramente comporterebbe tante cose positive. Non voglio dire altro, veramente. Grazie Maurizio per averci chiamato. Bisogna crederci sempre. sicuro. Speriamo, dobbiamo cambiamo nuovo, come scrivo oggi, finché matematica non ci condanna. C'è gente che in questo momento è malata, grave, sì, delle malattie impossibili, e loro credono. Bravo, quindi, guarda, Mauri, mi fa venire i brividi. Bravo, mi fa venire i brividi, sei un grande. Grazie. Io vengo da una retrocessione che della squadra della Sampdoria, dove ho pianto. Posso immaginare. Io ho visto mio padre piangere. Per una partita bellissima da piccolo, che io non capivo, e mio padre piangeva perché aveva perso col Capri. Io dicevo, io ero piccolo e mio padre ricevette una telefonata a Genova. Cioè, mio padre, che allora dell'Ischia, non sapeva nulla se non giusto qualche contatto con qualche vecchio amico, che questo gli aveva telefonato dicendo: "Ma oggi abbiamo perso il Capri". Ma tu hai capito? E mio padre mi ricordava sempre che quando erano andati a Capri con il battello di Cartuscille, allora che erano tornati con le pietre che gli tiravano i capresi da sopra la montagna. Pensati. E tutti nascosti nella casa. Maurizio, non dirci niente, ma purtroppo dobbiamo tagliare, perché ci sta qualcun altro, magari se vuole telefonare dobbiamo aiutare, che ci sono i ragazzi che dopo di noi. Okay. Maurizio, comunque qualche volta devi venire ospite in trasmissione, così parliamo più da vicino, dai, va bene? Va bene, noi ti salutiamo e ti ringraziamo ancora. Buonanotte e forza Ischia. Ciao Maurizio, buonanotte, grazie. Bene, bene, dai, che ore sono fatte, Pierangelo? Sono le 22:51, credo che sia ora di chiudere, anche perché ci sono degli altri ragazzi che hanno una loro trasmissione che andrà in onda a seguire. Io voglio ringraziare Pierangelo, ovviamente, per Rocco che è intervenuto, Ivano forse voleva fare qualche saluto. Ti concedo il microfono. Allora, saluto a tutti i tifosi dell'Ischia, Aldo, tutti quanti, e siamo sereni, e saluto anche il mio amico. No, allora io, scusa, prima di salutare, invece di stare sereni, diamo un coppo usurine, che là è processionata d'acqua. Ah, andiamo a serino, come dice Pierangelo. State sereni. A Pesciolino, a tutti quanti, e saluto anche il mio amico Franco Cascella, anche storico di tifoso dell'Ischia. Va bene ragazzi, buonanotte, arrivederci a tutti, e speriamo che questa trasmissione non abbia devastato, insomma, il tutto, che non scaturisca di nuovo la causa di tutti i mali. Assolutamente, assolutamente. Arrivederci. Grazie sempre a Mauro Cozzolino, Radio Treccia, e a Maria. Sì, adesso ci sono i ragazzi che condurranno una trasmissione brillante, si chiama Made in Ischia, e vanno, al quale noi cediamo il microfono. In bocca al lupo, ragazzi. Comunque, per salutarvi, dedico questa canzone a Mr. Mandragola, penso che non ci sia d'accordo. Te la dico.